tematiche, mi sembra che le due relazioni di Antichetto e di Cicotti siano state veramente ricchissime e secondo me, ma anche secondo, credo, secondo quelli che hanno partecipato agli altri seminari, la prospettiva costituzionale veramente riesce a rafforzare gli aspetti, gli studi che si fanno in una prospettiva solo storico-filosofico, solo storico-giuridico o anche solo di costruzione di fondamenti, delle fonti teologiche e degli scritti religiosi. Io vorrei, se mi permettete, fare il primo intervento, la prima domanda, perché sono stato molto colpito sia dalla conclusione della relazione di Antichetti e da alcuni motivi di Gozzi, con il quale mi trovo d'accordo, naturalmente, specialmente e in parte sulla conclusione. Ebbene, non so se riuscirò a dire quello che lega le due relazioni di questo, cioè mi ha colpito che entrambi, sia Antichetti sia Gozzi, alla fine discutono la conclusione di Broglie, no, discutono la conclusione di Broglie e poi mettono un punto interrogativo sul processo di secolarizzazione, sull'interpretazione del processo di secolarizzazione, sugli aspetti, sul problema del dualismo. Sottolineando come questi dubbi, questi interrogativi, vanno direttamente della storia costituzionale. Ora io sono completamente d'accordo, della storia costituzionale in senso lato, sono completamente d'accordo su questa prospettiva, nella misura che la storia costituzionale permette di mettere insieme vari aspetti disciplinari e anche vari problemi che sorgono in ambiti di storie particolari, di storie specifiche. Quindi allora direi una prima cosa per fare io, cioè io non demonizzerei tanto la filosofia della storia, non perché abbia una tenerezza filosofica verso la filosofia della storia, non perché voglio difendere la filosofia della storia, ma perché in qualche modo l'aspetto filosofico storico è non è possibile distinguerlo da quello storico costituzionale, secondo me. Perché? Per una cosa semplicissima. Per esempio, nel discorso di Gozzi c'è Coselle, Kings, Brunner, Turvassaro, Wegener sono autori che non permettono di cadere in una filosofia della storia. Ma corriamo il rischio di scambiare la storia costituzionale per la vera storia. Cioè che quando facciamo storia costituzionale noi siamo garantiti che facciamo la vera storia, che è l'assioma della filosofia della storia. Cioè la filosofia della storia cerca di capire qual è la vera storia. È chiaro? Quindi, allora, c'è un problema. Cioè la filosofia della storia può essere utilizzata all'interno della storia costituzionale, all'interno di un metodo, di una metodologia, della prospettiva della storia costituzionale. Quindi la storia delle idee, è vero che Prezzi non fa capire come si chiede questa, però a quanto pare che in altri scritti si potrebbe vedere, però la storia delle idee è una storia completamente inutile dal punto di vista della storia costituzionale. Ma anche è una storia completamente inutile nel senso che sono solo dei pezzi di storia da prendere, oppure la storia delle idee può insegnare qualche cosa. E qua vado alla conclusione di André, cioè mi ha parzialmente colpito il fatto che André dice che il giuramento oggi non si può spiegare solo con la storia di sé, ma si spiega soprattutto anche perché il fondamento costituzionale, il fondamento delle carri è diverso. Quindi, perché è diverso? Perché gli obblighi hanno il loro fondamento nella legge, hanno quindi il loro fondamento nella legge, non in un comando di tipo, in un'obbligazione di un comando di tipo sacrale. Questo però, dice André, non ci deve far disperare, perché il giuramento è la spina anche modesta di qualcosa di più generale, che è una concezione morale, un valore, dei principi, e quindi è legittimo un giuramento. Ma questa è proprio una secolarizzazione. Cioè, il giuramento laico è una secolarizzazione e il fatto il giuramento è la scolarizzazione di un giuramento di origine religiosa, cioè il fatto che l'obbligo è fondato sulla legge e non sul comando divino è proprio il problema del giuramento. Sono lì in questa famiglia, nel mondo di giurano si dirige giornalisti. C'è una giurano fedeltà alla Repubblica Italiana e ai suoi leggi, anche persone come gli altri figli, che non hanno nessuna, come lo mettiamo? Nessuna intenzione di condividere, di rimanere in eterno dentro questo stato e sotto. L'adempimento delle loro funzioni, come è che è una stessa data della Costituzione, è una cosa che della Costituzione sia possibile soluzioni, però giurano di rispettare, se giurano sinceramente, poi se giurano in maniera regolamentare, non lo so, giurano di rispettare le procedure costituzionali e i valori fondanti della Costituzione, anche se in quanto vogliono. Certo, se poi sono secessionisti, ma non so se questa è la situazione della tua arte, mi sembra di no. Sì, alcuni invece la croce, per esempio. Ecco, era solo un attimo. Sì, anche a me è interessato molto la conclusione. Cioè, mi è sembrata particolarmente significativa soprattutto per la lettura che ho fatto io del libro di Paolo Prodi, perché mi è sembrato che la domanda finale che si poneva al professor Allegretti, cioè relativa al problema del declino dell'istituto del giuramento, che secondo lui, se non ho preinteso, il libro di Prodi è posta in maniera un po' troppo repentina, insomma, senza possibilità di emergere a un certo punto della delle vicende storiche dal punto di vista cronologico. Ecco, anch'io dubito che questo declino ci sia stato in maniera così rapida e così perentoria, così radicale come mi sembra che Paolo Prodi abbia visto o letto attraverso appunto tutta la sua ricerca. Il mio punto di vista è molto limitato, molto semplice rispetto a tutto quello che è stato detto qui nei due interventi, nelle due relazioni, ed è un punto di vista prevalentemente di una storica moderna che si occupa dei secoli dell'ansia regime. Di tutte le sollecitazioni che dal presente naturalmente si hanno per tentare di riferire, che sono comunque di origine anche di questo marketing, come credo Paolo Prodi, non forse anche della storia, che però nel vedere questa storia del genere lì così strutturalmente diversa da quella della contemporaneità, perché per sé si dà come molti politologi, gli osservatori politici, osservano in tutti i tempi, quindi anche importante da riconsiderare per capire i motivi del fallimento di questa contemporaneità di cui viviamo. Ecco, mi sembra che da questo punto di vista il declino del giuramento e soprattutto degli istituti che al giuramento nel periodo dell'antico regime parlamentare sia appunto un po' eccessivo. Io mi sono occupata, continuo ad occuparmi, come non so, diciamo, lavoriamo assieme quasi quotidianamente, di quelli che sono nella letteratura storiografica tedesca, della storiografia costituzionale tedesca, considerati eventi diversi per paesi, contratti di dominazione, contratti di governo. Il problema della traduzione è abbastanza controverso, ma è la categoria. Ecco, certamente dalla metà, dalla seconda metà del 400 in poi, come dice Paolo Prodi, c'è la parte dello Stato sovrano che emerge sempre di più e sempre più si vuole porre come unico detentore del potere legittimo, da che tenta a diminuire sia di significato di questi contratti, sia delle forme di cui avvengono, che comunque contemplano sempre anche il giuramento. È anche vero, però, io credo, almeno quello che vedo io, insomma, proprio di una storia di avvenimenti, come, e qui sono assolutamente d'accordo con quello che dice Paolo Prodi a proposito della storia degli annali, della storiografia degli annali, che vedeva il giuramento come un avvenimento di anche questi contratti di potere, anche questi accordi partiti sono avvenimenti di lunga durata che durano sempre e che però appunto vanno anche se in forma diversa dalla metà del 400 a tutta quella metà del 600 che sono quei due secoli che Paolo Prodi vede come il momento di caduta diciamo della rilevanza di queste strutture politiche e costituzionali, ma vanno anche molto più in là perché vanno fino sicuramente come ispirazione politica, di attività politica, di pensiero politico, di riflessione politica, sicuramente fino alla rivoluzione del 1930. E questo in tutta Europa. Come, quando e perché tutto questo si modifichi è certamente un problema. Rimane però il fatto che, non solo dal punto di vista dell'azione politica, i poteri, diciamo, i piccoli poteri, Stati, si richiamano al valore fondante di questi Stati per garantire che cosa? Per garantire una loro concezione del diritto, che non è quello del diritto o della legge, che non è quello proposito del fatto che la storia dell'idea della filosofia politica debba essere, come dire, non debba far parte o siano qualcosa da diciamo, rifungere da una storia costituzionale. C'è comunque anche dal punto di vista della storia dell'idea, del pensiero politico, tutta una vicenda che coincide con questa, con queste strutture politiche che rivendicano la libertà, ed è quella, quel pensiero costituzionalista che è studiato ben noto da molti degli storici delle dottrine del pensiero politico, che accompagna tutta la vicenda costituzionale dell'antico regime, che affianca l'emergere della sovranità e l'emergere della concezione della sovranità, in un certo modo, che sappiamo, diciamo, in maniera così molto semplificata, che esiste ed è una parte, non so quanta, ma è comunque una parte consistente di vicende effettive, di elementi effettivi, di pensiero politico e di azione politica. Di mancato rilievo, la mancanza di rilievo reale nel dibattito costituzionale del federalismo. E non a caso mi sembra che il codice fosse chiamato questo termine geografico, figurano i garanti e coloro che tendono a creativa la costruzione, non gli stati generatori che evidentemente limitano il loro mandato a misurare priorità le costituzioni rispetto, si autolimitano. Cioè, non so se sia trattato anche un meccanismo di questo tipo, ma è certamente un elemento che infatti che devo avere sempre osservare la costituzione, certamente, però non mi avrebbe un senso lo stesso, ma in realtà diceva che ne infatti, ne possano impegnare un rispetto totale di una legge che possono modificare in corso, eccetera. E infatti ti dico cosa succede nella costituzione. La costruzione tedesca nel giuramento a una costituzione per una Germania che inizia per una città capitale nel suo complesso, cioè è vero che è in capo a una costruzione con una storia e così via, però non ho idea che cosa succeda, come giurino in Germania per il tedesco. Mi sembra che questa irrilevanza o minore rilevanza coincida fortemente col tema posto della minor trattazione del modello di giuramento rappresentativo. Minor trattazione laddove non si tratta, come si chiamava Rossi, della sacralità immanente dello Stato, cioè il giuramento. Cioè il giuramento non è contato. Cioè, voglio dire, la chiave esplicativa molto forte trovata da Rossi non è fondante del dato di fatto oggettivo, quando diventa appunto il piano di condivisi oppure rafforzativo di e quanto tale mi sembra del tutto comprensibile che questo terzo giuramento non sia, cioè in qualche modo sia all'interno del giuramento di Prodi la necessità di dichiarare perché esiste, ma altrettanto ovvio e significativo che ha una trattazione non mi volevo mettere di tempo, ma proprio meno significativa, non è più una chiave significativa. E lo è ancora nel regime di contatto, di sostituzione, di sacralità. Lo è certamente nella sacralità del potere del passato e suoi tradimenti, quindi il lungo percorso che tu richiamavi, di dare in crisi immediata, non lo è più. Nel richiamo, cioè questa irrilevanza è di fatto un'irrilevanza reale e politica, quindi proprio quella chiave che tu indicavi prima della forza dell'idea costituzionale, dentro di quello che non dico, mi sembra molto, molto logico nell'ambito del ragionamento del problema. Thank you. grandi studi, insomma, fin dall'inizio questa è una storia contaminata. Grazie. paura, per paura nel senso così che ha la vita è tutta la vicenda, e quello è se la vita che sono state le organizzazioni, non per spiegare l'importanza di una riflessione di tutto che cioè Thank you. piano, insomma, è una... non vedo nulla di da protettivo, ovviamente, per l'elettro, per parlare di un mondo di massa, perché ancora fatto, perché un mondo elettrico sia un mondo di massa, perché gli altri giuramenti, appunto, costituzionali sono più giuramenti che si chiamano modello, cioè il giuramento d'ufficio, è un esempio di è un filone che continua appunto da stare in Iraq, ai vicini di Iraq, fino ai nostri funzionari in qualche modo, ma che è legato all'esecuzione di un ufficio, di si suppone però di là già appunto un fondamento ulteriore. Il mio malessere non sono la difficoltà di questo, è che in realtà appunto anche questo di raccontamento scrivendo meno, cioè non tende penso che si trova alcuna soluzione da portare, ecco, se non questo tipo di ansia, cioè, che ho cercato di esprimere nell'ultima parte, più ansia che non altro, penso, ecco, non più lo so. Avrei voluto dire qualcosa di altro, io ci sono tante cose da parlare, insomma, mi sono sbloccato. Non so se sono ancora un po' di male, ma giusto così, se le scambio. No, ecco, io sono d'accordo con te che insomma occorre ritrovare il senso di quali siano i motivi che, come dire, ci uniscano, ci legano ancora, no? Come collettività nazionale, ecco, probabilmente come intellettuali, come, diciamo così, brutta parola, insomma, come dovremmo cercare di ravvivare, insomma, attraverso l'analisi, la proposta, insomma, il senso della profondità delle cose che ci uniscono, non solo che ci uniscono noi, ma che rappresentano pur sempre, nonostante la crisi attuale, questi valori condivisi della modernità che non possiamo pensare di abbandonare, che possiamo superare ma non abbandonare, cioè il fatto che dal 45 in avanti, e, diciamo, attraverso una serie di codificazioni che sono le costituzioni democratiche tipo l'italiana, la tedesca, poi le cose recenti, la spagnola, la portoghese, tutti i paesi usciti dal fascismo, parlo dell'est perché apre evidentemente un discorso ancora troppo attraverso le grandi codificazioni internazionali, lo statuto dell'ONU, la carta, la dichiarazione dei diritti universali, dei diritti del 48 che tu mi pare prima evocare, i patti dei diritti civili e politici del 66 e dei diritti economici e sociali, le grandi dichiarazioni dell'ONU oggi dimenticate, che poi la vita economica mondiale si lascia governare dal Fondo Monetario Internazionale e meno ancora dalle multinazionali, ma però che esistono, che hanno una possibilità ancora, che sono le grandi dichiarazioni sui diritti economico-sociali, la carta dei diritti e doveri economici degli Stati, ecco, che attraverso tutto questo sia maturato come un patrimonio, sia approfondito, voglio dire, tutto un patrimonio che storico, che al di là delle sinuosità, delle tortuosità della vita economica, delle spinte verso una direzione o un'altra, le organizzazioni o stato sociale, o comunque miscolanza tra l'uno e l'altro, o approfondimento del concetto di minoranza in quello invece di multinazionalità, insomma tutto quello che vuole, però c'è un patrimonio non rinnegabile. Si può pensare invece di abbandonare questa retroterra. Io credo che questo dobbiamo chiarire. C'è qualche cosa che, questo è il compito della nostra generazione, noi ormai siamo quasi anziani, e quello per esempio per i giovani di continuare a dar credito a questa serie, cioè segnalare come i nuovi problemi, le nuove frontiere, eccetera, non possano essere, diciamo, abbracciate con un rinnegamento di questa storia della modernità in senso forte. In questo senso, quelle orrende proposte della rivista Limes, no? di Galli, purtroppo c'è anche Rusconi, non so come mai, nella relazione, credo che condividi. Di contrapporre le ideologie costituzionali alla riscoperta del senso nazionale, del senso dei confini, eccetera. Questo è ciò che dobbiamo resistere in maniera forte. Invece il libro di Rusconi è essere moderno, come dottorato, sia non riesco a stare. Quello mi pare che diventi una mescolanza tra ideologia costituzionale e nazione, senso della nazione, no, sono successo, più che la conciliazione, insomma, mi pare che dica che la nazione va la nazione è la nazione in quanto ha una costituzione democratica anche, no? C'è un vedere che una cosa sta dentro l'altra, mi pare, poi non lo so, gli articoli più recenti, non lo so se quello che mi preoccupa è che lui e altri, Palbianco, eccetera, abbiano aderito a questa rivista Limes, che mi pare terribile nelle proposizioni e nelle presentazioni. Poi i due volumi seguenti sono stati meno, insomma, anche più concreti. Ma il primo, l'editoriale, la tavola rotonda del primo numero, mi hanno rimasti terribili. Vabbè, c'era anche quel provocatore che cade nella loggia, insomma, che diceva certe cose. Ma purtroppo per gli altri è anche sul Corriere della Sera, sempre di più. Tra l'altro questa contrapposizione, questa riscoperta degli interessi nazionali ai danni delle idee invece di solidarietà universale, mi pare, insomma, che sia un riprendere la nazionalismo, insomma, questa è la direzione a cui lavorare, certo, mi pare che sia quella di riproporre la permanente validità della cultura, e qui un po' meno la qualità storica, e qui con un po' più di ansia e un po' meno di, no, forse no, di fiducia in questa elaborazione, diciamo, così istituzionale, ma dicevo che uno può metterci anche l'ansia Renan di fronte alla dodicesima costituzione francese dell'Ottocento, dicevo che riuscito quotidianamente il parato, che è un bellissimo, cioè che la nazione è che ogni giorno il mutuo consenso si ripropone, cioè in memoria il mutuo consenso. E diceva anche che forse può andare a parte di l'ansia di Paolo, che gli studi storici hanno messo alla memoria nazionale, scoprono troppe cose di vita, cioè di storici, però appunto il nodo è che se il tuo consenso è l'elemento decisivo, e su cosa si può? È molto scherzo per fare una nazione così, però appunto nella tredicesima costituzione. Sì, insomma, non esiste un diritto naturale che sta soprattutto, però esiste un patrimonio storico dell'umanità che non possiamo relegare. Ecco, questo mi pare che è il nostro diritto naturale, nel certo senso di oggi, no? Quello che dobbiamo stare veramente legati, proprio lì, dire legati e dire male, in cui dobbiamo continuare a scavare. Che però appunto, visto l'anno di Paola, non è più così, così ovvio. Altre cose che hanno avuto nell'ultimo anno pericolosi dei giudizi. io come pochissimi, perché già molto è stato detto, ma poi solo la sollecitazione di Nestor e Grimm sul problema della storia culturale e della filosofia della storia. Credo che siano due prospettive abbastanza, credo, antitetiche. Perché, ma penso per esempio a quello che dice Cosenza, tornando su questo tema, tutti i due grandi storie, dei filosofi della storia sono stati Stalin e Marx, per esempio, due possibili percorsi, la percezione di movimenti che sono in qualche modo dominati da idee e da scienze, che potrebbe stare a dire che la storia costituzionale è una storia di idee. C'è la condizione che alla fine della storia certamente ci sarà questa incarnazione di un'idea di libertà, anche se poi naturalmente invece va a studiare proprio per un'analisi la storia costituzionale, gli sviluppi delle strutture che alla fine consentono l'incarnazione di questa idea. Naturalmente ha la percezione che questa sovrapposizione è proprio una reduplicazione rispetto all'operazione invece della storia. Cioè c'è proprio in questi autori la percezione di un doppio, l'analisi della storia costituzionale e istituzionale che alla fine viene denominata come affermazione di un'idea, come affermazione di un principio trascendente. Questo lo si può dire. Quando Kant dichiara, andiamo a vedere se nella storia questa idea trascendentale di un uomo libero e razionale si è verificata, dice se trovo un avvenimento che mi dà l'entusiasmo che mi dimostra che queste idee si stanno realizzando, c'è la rivoluzione francese, ma sì, dice sì, propone, anticipa, enuncia la filosofia della storia, ma che può in realtà mettersi benissimo anche senza vestire la scelta. Cioè c'è un cammino di diritti che alla fine tu puoi chiamare come trionfo dell'idea dell'uomo libero e razionale, alla fine poi invece arrivare semplicemente come affermazione, soprattutto Derrida dice queste idee. Degli ambiti della storia sono insostenibili dopo le tragedie di questo senso, cioè vedete che ha a un certo punto la morte della filosofia della storia. Allora mi atterrei invece proprio alla storia costituzionale. Capisco che può essere suggestivo pensare che ci possa essere una qualche direzione, una qualche antropologia diffusa, trascendentale, che a un certo punto alimenta questo cammino della storia. Mi attengo invece a quello che la storia ha prodotto, che io condivido, che sembra su questo stesso patrimonio veramente dell'umanità, una cultura di diritti che si adatta al tempo e che non può essere certamente messa in discussione. Oggi le nostre democrazie sono certamente travagliate dagli stessi rischi delle democrazie, penso a Vaca, che ricorda costantemente, ma è un pericolo che secondo me è irreale, perché certamente ci sarebbero le stesse condizioni, vuol dire gli stessi aspri conflitti, anche conflitti sociali. In realtà c'è stato un apprendimento, una consapevolezza di questo patrimonio che impedisce anche queste condizioni storiche su me stesse questo ritorno di diritto. Quindi che cosa posso dire? Le idee che circolano per esempio oggi in Germania di un patriottismo costituzionale, cioè come dire un'idea della validità condivisa dei principi della Costituzione, anche in assenza di un'idea di nazione che può essere se la trovo valido fondamento per il sostegno delle nostre democrazie. Che cos'è questo patriottismo costituzionale? Dice a un certo punto, non basta il patriottismo costituzionale, occorre che ci sia qualcosa di più di un patriottismo costituzionale, occorre che ci sia qualcosa di più dei principi della Costituzione, ma il momento in cui va a definire questo qualcosa di più o scivola verso ambigue idee d'azione, parte di lui su questo punto. Sembra abbastanza incerto. E invece si vuole certamente questa cultura che sia fondamentalmente un valore, cioè questa cultura della democrazia e direi questa antropologia che sia costituita in modo mai irreversibile della percezione rappresentata dal punto di vista dei diritti di libertà, dei diritti sociali e garanzie delle minoranze, soprattutto. Secondo me questa antropologia è il fondamento culturale dell'accettazione dei principi costituzionali. È un pensiero, dico subito, pienamente secolarizzato, questo vorrei dire. mi rendo conto è quello che mi attrae molto è la tensione morale che abbiamo nel libro di prova. Questo sì, questo trovo onestamente suggestivo, profondamente proprio coinvolgente. Credo che dal mio punto di vista forse si può rispondere a questa cultura di questo uomo dotato di una cultura della democrazia, si sta affermando e può rendere una democrazia al di là della perdita dei suoi fondamenti originali che invece sono fondamenti sacrati. Questo è quello che alla fine mi sento di poter dire, però anche per me rimane un terreno tutto da ovviamente da sperimentare. Posso aggiungere due altre cose ancora? Così con amici e libertà. Ecco, io vorrei una prima cosa, io credo che dobbiamo fare una polemica contro molti costituzionalisti italiani, questo che parla di un ambito disciplinare preciso, perché molti costituzionalisti hanno invece perso abbastanza la bussola, secondo me, in questi anni. Si sono arresi al fatto che hanno dimenticato che la scienza costituzionalistica è necessariamente prescrittiva, non prescrittiva astrattamente, ma che parte da valori fondanti che poi possono avere traduzioni diverse. Si può criticare la Costituzione in nome della Costituzione, però, cioè i meccanismi a parte, ma invece non in nome della pura resa al fatto, alle pratiche della politica, che poi giunta adesso abbiamo scoperto essere pratiche della corruzione politica, ma 2-3 anni fa si poteva non avere questa percezione, ma già per me era evidente come certi costituzionalisti avevano messo al posto dei principi, dei valori della Costituzione, le pratiche costituzionali, spesso distorcenti. In fondo la presidenza Cossiga, per esempio, tutto quello che Cossiga andava dicendo, aveva dietro purtroppo dei cattivi maestri costituzionalisti, che non gli avevano, gli consentivano di deformare la Costituzione. Adesso poi per fortuna Cossiga forse non potrà più nuocere tanto, se in questi giorni è ritornato. Questo riguarda un po' il piano della costituzionalistica. Io non sono andato all'ultimo congresso di costituzionalisti che è stato i giorni scorsi a Siena, ma mi dicevano alcuni vicini, mi dicevano che erano spaventati come una serie di costituzionalisti, senza neanche denunciare che abbiamo sbagliato e non cambiato idea, ma quasi pensando che la gente avesse dimenticato, insegnano oggi proprio il simmetrico opposto di quello che insegnavano ieri, senza darsi cura di ricondurre a un contesto costituzionale generale alcune affermazioni. Quindi c'è tutto, secondo me, c'è tutto un ruolo, un dibattito da rifare dentro la dottrina costituzionalista. Una cosa diversa, volevo dire, ecco, sì, questa secolarità, d'accordo, un credo secolare, però ecco, questo non vuol dire che i credenti, io per esempio sono credente e sono sicuro di ispirarmi, posso essere sicuro di ispirarmi, qualcuno può essere autoconsapevole, non lo so, di ispirarmi anche nelle battaglie politico-culturali che faccio, culturali politiche, non so che faccio, ad alcuni profondi valori cristiani che io ho aperto come, non dico come storicamente derivati dal Vangelo del cristianesimo, questo no, ma insomma che hanno nel Vangelo e nel cammino storico del cristianesimo alcuni grossi punti di riferimento. E comunque per me un certo tipo di battaglia sul piano, per esempio, dei grandi valori di solidarietà universale, del riconoscimento della dignità dei singoli uomini al di là della razza, della cittadinanza di un singolo Stato, eccetera, per me hanno sicuramente, come per Paolo, come per altri, un'origine religiosa, e qualche volta la denuncio anche. Anzi, nessuno mi consente di denunciarla, come alcune serie persone laiche con le quali vivo e con le quali ho operato, per esempio alcuni di tradizione che provengono dalla tradizione comunista, sono sicuramente rispettosi e come dire, anche contenti di scoprire e di percepire quali sono le radici. Quindi questo è anche, come dire, anche questo appartiene, credo, a un aspetto che fa parte dei valori condivisi dell'umanità di questi ultimi 50 anni. A me, certo, poi ci sono altre sono, esistono, ma insomma c'è un tesoro qui da continuare a portare avanti. Io le faccio, io so di farle da credente alcune battaglie, ma non ho bisogno allo stesso tempo di argomentare e rivelare spesso questo fondamento, perché, come dire, uno dei miei maestri sul terreno delle idee, Padre Balducci, lo diceva, l'ha ripetuto fino alla notte, insomma, che di alcune c'è un terreno di umanità su cui è possibile incontrarsi, a cui, e su cui al credente è possibile interamente collocarsi. Però della fine del suo libro, io non sono quell'uomo, che non voleva dire che abbiurasse la sua particolarità di credente, a cui è rimasto invece sempre saldamente e fortemente ancorato. Ma c'è il patrimonio della modernità che ha inglobato la tradizione cristiana, la tradizione illuminista, secondo me anche la tradizione comunista, adesso questa è seconda, evidentemente, dal fallimento storico, ma insomma, invece tanti valori, tante aspirazioni, tanti diritti vengono da quella tradizione, o almeno diciamo anche una base in certe tradizioni dell'illuminismo, della tradizione francese e poi, però sicuramente hanno avuto una maggiore emergenza attraverso la terza cosa, sì, è che in realtà il mondo protestante ha respinto le dichiarazioni di Cristo come noto del 39, così anche il mondo cattolico ha respinto le dichiarazioni del 39, per esempio il mondo protestante solo recentemente c'è stato un incontro per questa cultura dei diritti della Chiesa evangelica che è stata poi l'origine della crisi del tempo. Ecco, quindi qui si intravede un terreno di dopo che la religione civile grande Rousseau è fallita e escludeva i non credenti, dopo che anche il generale dell'opera che escludeva a sua volta i non credenti, è possibile trovare un credo o dei principi che valgano nella democrazia pluralista sia per il credente e il non credente? Questo è il punto. Sì, ma intendiamoci. Questo è la difficoltà è la quale pontefice davvero presenta in certi aspetti una ricchezza, una continuità, in altri non posso che rifiutare certi tipi di atteggiamenti, perché i problemi esistono, però ecco, insomma, voglio dire, la terza dimensione è quella universale, cioè l'altra cosa che dobbiamo poi connessa a questo, però mai significata, è che non è possibile una cultura dei diritti della cittadinanza che sia ancorata soltanto all'Occidente e soltanto ai singoli contesti nazionali. Noi dobbiamo affermare rigorosamente che i diritti valgono per tutti gli uomini, anche la Costituzione francese in fondo. Poi immediatamente la Carta del 91 non si applicava alle colonie, però l'idea era invece dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e non solo del cittadino. Quindi c'era. Però ecco, oggi questo c'è una sfida, perché le democrazie occidentali si stanno sempre di più ripiegando, basta pensare alla colluvia di leggi contro l'immigrazione, di restrizioni della cittadinanza, di leggi contro il diritto d'asilo, Francia, Italia, Germania, eccetera. Persino di modifiche costituzionali. Questa è una sfida, ma questo è il rilevamento di una spinta invece verso l'universalizzazione dei diritti, che invece nel dopoguerra, dal 1945 fino al patto dei diritti civili e politici del 1966, questa è una battaglia che dobbiamo ci sono poi anche portare avanti. Le ragioni dell'economia, no? Che in qualche modo forse contrastano anche con questo. Sai, per il maggior io continuo a vedere questo, infatti. Ecco perché tendo a dire che bisogna sottolineare i diritti sociali e il controllo. Una parte di controllo pubblico sulla ricchezza privata, perché se no tutta questa può giocare contro i diritti. E non per nulla l'arretramento comincia nel 79 con l'andata al potere della Thatcher del Regno, quando c'è la spinta assoluta alla privatizzazione, ha immediatamente aperto la possibilità di una restrizione drastica della sfera dei diritti ai vecchi diritti civili Adesso cominciamo i discorsi che possono andare avanti. Thank you. Speriamo che la gente non possa essere già.